ci lasceremo la pioggia alle spalle, la pioggia di un posto qualunque del nord, e scenderemo all'inferno nel cuore profondo del sud. Io sono il figlio viaggiatore, nato da un padre che guidava i treni, e so che un ritorno è sempre una strada da ritrovare. La bancarella di cianfrusaglie, da dove raccogliere un souvenir, pegno d'amore alle nostre moltissime promesse spose, senza le quali non si sa fare, ma questa sera c'è da partire, per ritrovare, per inseguire la via del folk. Sono dolcissime, sono infinite le vie del folk, sono santissime e maledette le vie del folk. Sono il battere di levare, la ninna nanna che fa sognare, senza cuscini, tra le coperte vecchie canzoni, senza lenzuola, ma nella testa nuove canzoni. Stanno scritte su certe cartine, con dentro pochissima geografia, che incendieremo per un tiro di fantasia, mischiando i sonagli del sud Italia alle fisarmoniche d'Albania, le cornamuse con le pizziche della Grecia. Sono dolcissime, sono infinite le vie del folk, sono santissime e maledette le vie del folk. Sono il binario che perde il treno, la carovana per nessun dove, viaggi leggero, ma nelle tasche vecchie canzoni, senza valigie, ma nella testa nuove canzoni.